Arena 013, ore 23 del 24 dicembre. Nonostante le due bombe, la prima al Duomo ed una seconda ad una banca situata nel quartiere futuristico della NA 013, la popolazione zombie, che non abita in quelle zone, non è a conoscenza di quanto accaduto e continua a festeggiare la vigilia di Natale seduti intorno alle tavole imbandite. Lo Stato Maggiore di Tarspok, che ha la sezione speciale proprio nelle vicinanze della banca attaccata, si divide tra i luoghi degli scoppi e la loro sala operativa in cui si riuniscono in un summit. Dopo pochi minuti dallo scoppio alla banca e dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme all'interno dei locali, si viene a conoscenza degli odori dell'attacco attraverso una scritta rilasciata su una delle pareti della banca. Nel giorno dell'eccessivo consumo abbiamo deciso di attaccare chi consuma le nostre vite. Ancora un buon Natale nero, Refractarius. Nel frattempo nella sala operativa della sezione speciale Tarspok stanno cercando di fare il punto della situazione per capire le misure da attuare entro un'ora, e cioè prima che gli zombie si riversino in strada per recarsi alle chiese. Si pensa che i Refractarius possano attaccare durante le messe di mezzanotte, ma non contro gli zombie. I Tarspok sanno benissimo che i Refractarius non penserebbero minimamente di attaccare la popolazione, ma potrebbero approfittare della massa per sfuggire ai posti di blocco e sferrare altri attacchi in altri luoghi. Il baffo grande forto di Navig, il generale dell'unità speciale di Tarspok, Navig cerca di nascondere il tremolio delle labbra per la rabbia. È come qualcuno si fosse burlato di lui. Non dice una parola e fuma nervosamente, mentre seduto a capotavola durante il summit, ascolta i suoi inferiori che lasciano spazio alla fantasia con vari suggerimenti e azioni da intraprendere. Tra loro sono in molti a voler partire immediatamente con un'azione repressiva contro i Refractarius, ma Navig tentenna perché tra i posti di blocco, luoghi degli attacchi e servizi di sicurezza nelle chiese già sono impegnato un numero elevato di Tarspok, e se a questi numeri si aggiunge la quantità di uomini topo che servirebbero in questa azione repressiva, si rischierebbe di rimanere scoperti e mettere in serio pericolo sia le due grandi torri che la galleria. Alla fine il generale decide di evitare ulteriori pericoli ed un'ulteriore beffa. A parte i Tarspok già impegnati all'esterno, ordina che tutti gli altri restano in allerta e di guardia agli ingressi delle torri e i tombini di galleria. È mezzanotte ormai e gran parte degli zombie è già in chiesa o a festeggiare la nascita del Nazareno nei bar bevendo fiumi di alcol. Gruppi di zombie vagano allegramente per le stradine del centro antico della NA 013. Sono così allegri da dimenticare qualsiasi problema. La città non sembra aver accusato alcun colpo, nonostante i media Tarspok abbiano già attuato la loro campagna di terrore attraverso i loro mezzi di comunicazione, parlando di pericolosi terroristi che hanno attaccato oltre una banca il Duomo proprio nella notte di Natale, mettendo a serio rischio la vita degli zombie che si sarebbero recati nel luogo sacro per la messa di mezzanotte. Verso le 3 di notte gli zombie iniziano a rincasare. Oltre alla grossa massa che si muove a piedi nel giro di mezz'ora, si formano grosse file di traffico d'auto nelle strade principali del centro antico. All'esterno della torre di guardia M, due Tarspok sono fermi, con i mitra spianati, ai lati dell'ingresso principale. I due sono vigili a tutto quello che si muove davanti ai loro occhi. Un forte scoppio, all'improvviso, proveniente alle spalle della torre, li raggela. Abbandonano il posto di guardia per andare di corsa alle spalle della torre ed accertarsi che lo scoppio non abbia causato danni ad essa. In una manciata di secondi, due auto si fermano davanti all'ingresso della torre. Due uomini scendono dalla prima vettura per entrare nell'altra, che si smaterializza in pochi secondi. I Tarspok della sezione artificieri vengono avvisati del movimento notato dalle telecamere e corrono veloci giù per le scale per il controllo dell'auto. Sono quasi arrivati all'ultima rampa di scale quando l'auto esplode, facendo tremare tutta la struttura e facendo volare i Tarspok dalle scale, che vengono investiti da detriti di ogni genere. La torre resta al buio ed una grossa nube di polvere fuoriesce dal portone principale. Appena 10 minuti dopo lo scoppio, alla posta elettronica del comando di Tarspok arriva una mail anonima dal mittente. Con questo terzo attacco abbiamo colpito i tre re magi, che attraverso l'incenso della chiesa, l'oro delle banche e la mirra con cui le braccia armate di Tarspok tendono di balsamare i nostri prigionieri dentro galleria, rendono lunga gloria allo Stato. Refractarius. need of our time as a wet dream. They want to turn the internet into their personal global chessboard, with every user as a servant to the powers. Freedom, truth, self-realization. This is what we want, and we must resist all forces. We're pushing against our liberation, stagnation, deflation, capitalism, the constant trigger for frustration. The more closed off the network is to outside intrusion, the less able it is to engage with that which is outside itself. Intellectual property is already digitized. The non-virtual world should mirror and incorporate the possibilities of the free internet. Let's abolish the existing grid. The more closed off the network is to outside intrusion, the less able it is to engage with that which is outside itself. Allora, dopo la lettura di Nazero 13, preceduto da un pezzo nuovo edito da sottoscritto, che nemmeno a farlo posto si chiama Los Refractarios, si danno gli indirizzi utili per radiazione@odistici.org per la mail, per chi vuole mandare qualsiasi tipo di mail a redazione con consigli, libri sui libri da leggere, oppure critiche o pareri sui libri che si stanno leggendo. Lo ricordo, ora stiamo leggendo Vera Cruz di Valerio Evangelisti. Poi volevo dire una cosa: qualcuno si è offeso per la questione sull'articolo dei Notav, dicendo che avevo scritto qualcosa di non vero. Quella cosa di non vera veramente mi è stata detta da chi è dentro il movimento Notav, quindi chiudiamo qua la questione. Allora, per i blog invece radioazione.noblogs.org, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast, dove potete leggere soprattutto la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete scaricare libri, opuscoli, manifesti e quant'altra roba che trovate nella sezione download. Per la radio invece è radioazione.listentumaradio.com, altrimenti attraverso il banner che trovate in home page su Radioazione ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 ad ascoltare la diretta d'azione. Ora ci ascoltiamo un brano degli Adolescents, It's Statue Time, e poi dopo si torna qui e si torna subito con la lettura del libro di Valerio Evangelisti, Vera Cruz. Lunedì 6 gennaio 2014, un nuovo anno, speriamo, nero per tutti gli altri, tranne che per noi altri ovviamente, non solo coloro che stanno a questi microfoni, ma pochi altri. Eravamo arrivati nel seguire le azioni, le vicissitudini della Fratellanza della Costa, eravamo arrivati alla divisione del bottino dopo il saccheggio della capitale della Nuova Espagna, Veracruz, eravamo sulla Isla de Mujeres, la isla delle donne, i pirati erano stati accolti dalle le donne bucaniere, queste metà indigene, metà importate dai bordelli e dalle galere francesi per far in modo che i coloni, i cosiddetti coloni, si riproducessero, e i pirati erano stati accolti prima gioiosamente. Poi la presenza di questa dama di compagnia, Gabriela Junot Vergara, aveva portato alla fustigazione della matrona di quest'isola che l'aveva offesa, e il nostro, diciamo, anima narrante, che è Hubert Macary, un ufficiale a bordo delle Ardide, il comandante de Grammont, si trova coinvolto adesso in una dinamica a lui sconosciuta. Lo stanno cercando, lo cercavano per tutta l'isola, perché era stato accusato di aver fatto un qualcosa, e quindi adesso ci addentriamo in queste sue personali complicazioni. Macary si presentò all'accampamento con il cuore in gola. Sapeva di essere innocente, tuttavia era anche consapevole del fatto che quanto più fantasiosa era un'accusa, tanto più difficile era districarsene. Fu tentato di fuggire, ma dove avrebbe potuto nascondersi? L'isoletta era piccolissima, e d'altra parte un oscuro senso del dovere gli imponeva di sottoporsi a giudizio. Il campo era in corso di smantellamento. I fratelli della costa avevano cominciato l'evacuazione e portavano alle scialuppe di loro fardelli appesantiti da monete e beni preziosi. L'equipaggio del Saint Nicholas era radunato attorno alla casetta in cui era morto Fanorn, avvelenato da un veleno sulla lama della spada di Lorenzidio, e nessuno dimostrava commozione. Certo, c'era chi lo aveva amato, anche solo stimato, però tra gli avventurieri un decesso era troppo comune perché gli si attribuisse un peso particolare. Argomento di tutti i capannelli era chi avrebbe assunto il comando del brigantino ed ereditato il tesoro del defunto. A poca distanza sostava anche Rigobert Retexar in compagnia di un altro ufficiale, Jean-Pierre Focard, al servizio dei Chasse-Marais sul Saint-Joseph. Con loro c'era Marie Florette. Quando vide la donna, più trasandata e selvaggia che mai, Macary perse la poca calma che gli restava. Il cuore gli batté contro la cassa toracica fino a farlo dolere, e si preparava al confronto decisivo. Retexar posò la mano sinistra sulla spalla di Marie Florette e con la destra le additò chi arrivava. «Eccola! Quello è Hubert Macary. Confermi che è stato lui a rubare l'estratto di Vitalba ex Kemeling?» «Ma dov'è? Non lo vedo proprio!» «Ma è lì, è proprio davanti a te, l'uomo che accusi, non lo riconosci?» «Ma non è lui!» Esasperato, Retexar afferrò Marie Florette per il collo di pelliccia. «Hai detto che il ladro si chiamava Hubert Macary, che fai, lo neghi? Vuoi essere frustata una seconda volta?» La donna non manifestò alcun timore. Si limitò a togliere dal collo la mano che la stringeva e parlò con pacatezza nel francese corrotto dei bucanieri. «È stato Le Fulan a dirmi di essere Hubert Macary. Ma non è questo tizio che ho visto qualche volta. È assolutamente un altro!» Macary non capiva nulla e non di meno provava sollievo. Si avvicinò senza più remore, abbozzò persino un sorriso. Retexar si rivolse a Focar. «Uno scambio di persona, sembra. Meglio così. E adesso che facciamo?» «Continuiamo a cercare il falso Macary. Focar era molto giovane, aveva modi spicci sul Saint Joseph, non aveva incarichi precisi ed era sia il secondo ufficiale sia il nostro uomo. Caduto Charles Ruiné in disgrazia, ne aveva ereditato la sua funzione. Comandava in sua vece gli Enfants Perdus, l'avanguardia di terra della filibusta, i soldati pronti alla morte che marciavano in prima linea. La vecchia, replicò Retexar indicando Marie Florette, è qui da tempo e ha visto passare quasi tutti i nostri e non mi ha ancora detto finora. Quello è l'avvelenatore.» Focar sbuffò. «Magari è già a bordo, chi lo sa?» Tolse il cappello piumato e disse a Macary: «Siete stato accusato ingiustamente e io ci ho creduto, vi chiedo perdono.» Retexaro fu obbligato a fare lo stesso. «Vale anche per me, Hubert. Certo, dovete avere un nemico ostinato e pericoloso se ruba persino la vostra identità. Ora, però, raggiungete le Ardi con la prima barca in partenza e state in guardia. C'è chi ha deciso di rovinarvi.» Sul piccolo molo della costa nord della Isla Mujeres fervivano i commerci. Era la vocazione degli avventurieri, vendere e comprare di tutto, con i pezzi da otto accettati nell'intero Caribe. Gli uomini in attesa dell'imbarco mercanteggiavano gli oggetti migliori rubati a Veracruz. I mutilati offrivano alcuni degli schiavi di loro spettanza. Il grosso, però, era impegnato nelle operazioni di reimbarco. Un piccolo gruppo capeggiato da Philip Dixon, carpentiere sulla francesa, aveva allestito una fucina improvvisata presso le mangrovie. Dixon e John Barton, maestro d'ascia, stavano battendo sulla lamelle di ferro incandescente per forgiarle. Costruivano qualcosa. Magari stava osservando quel lavoro quando Francis Levert gli venne incontro. Era cordiale, quasi divertito. «So che te la sei passata brutta per un equivoco, ne parlano tutti. Beh, felice di vederti in vita, sano e salvo, si direbbe». Magari indicò gli uomini che battevano il ferro. «Ma cosa stanno facendo quelli?» «Con precisione non lo so. Ha a che vedere con la punizione che Lorenzio ha stabilito per Charles Ruiné dopo che questi ha trasgredito agli ordini». Levert si sfregò le mani. «Di qualsiasi cosa si tratti, sarà un supplizio fantasioso. De Graaf, in questo, è un mostro di inventiva. Ricordi di quando fece scorticare...» Magari lo interruppe. «Oh, vedo una barca diretta a Sleardi con posti vuoti. Vado, io vieni con me». «Ma certo». E corsero verso la scialuppa che stava prendendo il mare, carica solo di 4 rematori, il timoniere e un cinghiale legato per le zampe che grugniva spaventato. Prima che raggiungessero la fiancata del brigantino si udì un colpo di cannone. I vogatori lasciarono i remi, i passeggeri si alzarono e tolsero il cappello. Così fu per le ciurme già a bordo e sulla spiaggia, per chi attendeva il mezzo per imbarcarsi, e cadde un silenzio profondo, interrotto solo dalle stride dei gabbiani. Una lancia senza piloti portava via la salma del capitano Nicholas Van Horn. Aveva una vela gonfiata dalla brezza e navigava rapida. L'imbarcazione non era sfondata e non caricava acqua. Puntava dritta verso il largo, dove un'ondata più forte l'avrebbe rovesciata. La salma era avvolta nei gighi di Francia, non la bandiera nazionale del morto, ma quella per cui aveva più combattuto. Sul petto del cadavere, fra le dita intrecciate, erano state posate la sua sciabola e la sua pistola favorita. Passato il sacello galleggiante, tutti tornarono alle loro attività, dopo un frettoloso segno di croce. Il Leardi tonneggiava placido, eppure possente. Magari ne era rimasto assente per pochi giorni, ma fu ancora una volta felice di rimettere i piedi sulla sua tolda. E così Levert e gli altri avventurieri. Curiosa gente, i fratelli della costa. Odiavano il mare, i pesci e le loro stesse navi, ma malgrado ciò non riuscivano a starne lontani troppo a lungo. Alcuni marinai si fecero incontro. «Quali sono gli ordini secondo ufficiali?» chiese uno di loro a Macari. Si trattava del giovane Jean-Félix Guérin. Si diceva che il biondino dei capelli a caschetto fosse il compagno ufficiale di Goldfam. Pochi però si interessavano alla questione. Ogni filibustiere aveva il suo partner, platonico o no, che fungeva da erede se l'amico decedeva o da compare d'anello se si sposava. Macari e Levert erano un esempio di questa vita di coppia, peraltro senza implicazioni sessuali. «Il capitano è a bordo?» «Sì, ma non è ancora uscito dalla sua cabina». Macari sapeva che retexare da terra doveva prendere decisioni, cosa che normalmente evitava. Preferiva trasmettere quelli altrui. «Non si salpa ancora, ma stiamo pronti. I gabbieri sui pennoni per spiegare le vele, uomini robusti allargano, tra breve ci sarà da levare l'ancora, il timoniere alla barra, volentieri!» «Vado, secondo ufficiale», disse allegramente Levert e corse alla sua postazione. Retexare apparve di lì a poco, intento a essarsi oltre l'impavesata dell'ultima lancia che aveva accostato i Leardi. Era bagnato dalla testa ai piedi, sputò sulla tolda e disse: «Sempre la stessa puzza, mi ci vuole una pipata che disinfetti l'aria!» Osservò l'assetto del veliero, i gabbieri in posizione sui pendoni, la catena dell'ancora pronta a sollevarsi. «Bravo!» disse a Macari. «Ci sono le condizioni per salpare, e dunque si salpi! E verso dove?» «E chi lo sa?» «Aspettiamo che l'ammiraglio ce lo comunichi, nel frattempo l'importante è allontanarci da questa isola maledetta». Al segnale di Macari, l'argano, spinto da braccia muscolose, prese a girare. Prima di essere liberata dai gerli, spiegata fu la vela di maestra, la più grande. Seguirono le altre per finire con la randa. In successione, le navi dei filibustieri imitarono l'esempio dell'ammiraglia. La francesa, la Reglita, Conquiror, le Tigre, San Joseph e ultimo il Saint Nicholas, passato sotto il comando di Jean-Pierre Focard. La isla Mujeres, con le acque trasparenti che la circondavano, con la sua fitta vegetazione, con gli edifici enigmatici che superavano le cime delle palme, fu lasciata indietro. Le donne dell'isola, radunate sulla spiaggia, salutarono chi partiva scaricando in aria i fucili. Da quella visita non avevano tratto molti vantaggi, in verità, per non parlare dell'infortunio capitato a Marie Florette. Un po' di denaro, qualche oggetto prezioso, momenti di quello che sarebbe stato arduo definire amore. Tuttavia adesso le attendevano mesi di solitudine e di caccia ai cinghiali ormai rari, cui per costumi somigliavano sempre di più. Macari avrebbe voluto sapere dove era imbarcata Gabriela, ma non osava chiederlo. Lanciava occhiate al quadrato di poppa in attesa che ne uscisse ex Kemeling, l'unico cui avrebbe ardito domandare notizie. E invece fu il comandante de Grand Monde a apparire sul ponte. Era fermo sulle gambe, ma si appoggiava al fodro della lunga spada come a un bastone. Retexar gli corse intorno. «Sto facendo rotta verso la Giamaica, ammiraglio, per poi puntare su Cuba, Petit Guavo, la Tortuga. Secondo ciò che deciderete, è corretto?» Il cavaliere aveva il viso sciupato di chi non riesce a dormire. «La rotta è quella giusta, però adesso abbiamo un altro problema. Sta per scatenarsi un uragano.» Meravigliato, Retexar scrutò il cielo limpido, in cui non si vedeva nemmeno una nube. «Beh, non direi proprio, ammiraglio, il mare è calmo e la rietta forte il giusto da farci avanzare. Date retta a me. Credo più alle mie gambe e ai dolori che mi provocano che ai miei occhi.» E de Gramont emise un sospiro. «Comunicate alla flotta di cercare di tenersi unita, se possibile, e fate ammainare la vela di maestra, rischiamo di perderla.» «Siete proprio sicuro?» «Sì, non perdete altro tempo!» In quel momento una folata di vento si sollevò impetuosa e violentissima. Le onde, un attimo prima quiete, si innalzarono. La vela di maestra prese a schioccare e a torcersi. Quasi si volesse staccare, le altre vele sbattevano. «Che vi dicevo?» disse de Gramont prima di rientrare nel quadrato. L'imperturbabile e diligente Rigobert Retexar, sempre sicuro di se stesso, si fece il segno della croce. Oh mio Dio, mormorò. There is no America. There is no democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT, Union Carbide and Exxon. There is no America. There is no democracy. There is no America. There is no democracy. There is only I'm just a home. Dopo il brano di Snog che seguiva il primo capitolo per oggi di Veracruz di Valerio Evangelisti, cioè, passiamo alla controinformazione. Si va in Grecia, dove leggiamo una lettera del compagno Spiros Stratolis, in cui chiede agli altri tre detenuti di terminare lo sciopero della fame. Lo ricordo che Ergun Mustafa, Rami Sirianos e Michalis Ramadan Aoglu, dopo la lettera di Spiros, hanno messo per l'appunto fine allo sciopero della fame, iniziato a fine novembre in solidarietà con il compagno di cui leggiamo lo scritto. Oggi 30 dicembre 2013, dopo 50 giorni di sciopero della fame, vedo che i meccanismi statali stanno cercando di sfinirmi tramite la loro negligenza. Io rispondo continuando la lotta, ma non permetterò che la mia decisione metta in pericolo i miei compagni. Gli scioperanti solidali Rami Sirianus, Ergun Mustafa, Michalis e Ramadan Oglu hanno seguito la mia decisione di fare lo sciopero della fame dall'11 novembre, richiedendo il mio proscioglimento dalle accuse costruite a mio carico, a fine di riottenere giorni di permesso. Non voglio che tre veri guerrieri cadano proprio ora. Rami Sirianus dopo 40 giorni, Ergun Mustafa e Michalis Ramadan Oglu dopo 36. Ora chiedo loro di darmi retta, di resistere e di mantenere vivi me e la nostra lotta. Ho chiesto con forza ai miei fratelli solidali di interrompere lo sciopero, visto che hanno già raggiunto il loro obiettivo, ovvero trasmettere il potere della solidarietà e il messaggio della resistenza collettiva stando dalla mia parte. I nostri corpi e le nostre menti hanno agito all'unisono e io riesco ad essere ancora fermo nella mia posizione grazie a loro. La loro decisione ferma di sostenere la mia lotta resterà per sempre impressa nel mio cuore. Le loro azioni dovrebbero restare nella memoria di tutti noi, per il loro apice di responsabilità politica nell'affrontare insieme a testa alta il nemico. La libertà ci appartiene e ce la riprenderemo. Mi sono sentito di far arrivare le mie richieste ai miei compagni attraverso questa lettera aperta. Io continuo lo sciopero della fame, noi siamo insieme e resteremo insieme fino alla fine. La passione per la libertà è più forte di tutte le celle. La resistenza e la solidarietà ci uniscono e ci tengono vivi ancora. Affrontando i nostri nemici dobbiamo dichiarare sempre la nostra attitudine, noi chiediamo pietà e non scenderemo a patti. Terence McSweeney. Questa era un'ultima citazione con cui chiude la lettera a Spiros e poi c'è la firma Spiros Stratolis, prigioniero nel carcere di Larissa. E questo era per quanto riguarda questa prima controinformazione dalla Grecia. Ne diamo un'altra brevissima. Ricordo che era arrivata un testo rivendicativo da parte del nucleo Alfredo Nicola della FAI FRI, in cui dicevano che avrebbero sabotato alcuni prodotti di Coca-Cola e Nestlé. Avevano mandato un video e la prova in una bottiglietta a due giornali, a due media come l'Espresso e Zugla. Zugla ha mantenuto, cioè ha comunque accettato di propagandare il video mandato dai compagni, si è saputo che praticamente alla vigilia di Natale Coca-Cola, dopo una lunga trattativa con la polizia, ha ritirato tutti i prodotti dagli scaffali dei propri rivenditori ad Atene e a Salonicco. Per la messa però non si sanno ancora notizie, non si sa se ha ritirato o meno i prodotti, ovviamente a loro chi gliene frega, dopo aver ammazzato milioni di bambini con il loro latte in polvere, una vittima in più, una vittima in meno fa poco, non fa differenza. Queste erano le due notizie dalla Grecia, ora ci ascoltiamo un brano di Buzzcocks, Bardom, e poi dopo si torna qui e si torna con la lettura di Vera Cruz di Valerio Evangelisti. L'ordine che magari più temeva giunse puntuale. «Secondo ufficiale, arriva!» gli gridò Retexar. «C'è da sedare la maestra!» Le condizioni climatiche non potevano essere più sfavorevoli. Il vento soffiava più non posso e stava radunando nuvole nere fino ad oscurare completamente il sole. Non cadde pioggia, ma invece grandine, fitta e furiosa. Gli schiocchi delle tele parevano tuoni, tanto erano assordanti. In quella situazione Macari cominciò a montare a riva, seguito da 8 gabbieri scelti tra i più robusti. Salì grisella per grisella, con i chicchi ghiacciati che lo percotevano e il terrore che da un momento all'altro il vento lo strappasse dalle sartie. Il pennone di maestra era lunghissimo e i piedi sulla fune, che fungeva da sostegno, dovette raggiungere l'estremità più lontana. Quando tutti i gabbieri furono allineati, cominciò l'operazione più difficile. Raccolsero infinite volte la tela sul pennone, ma quando provavano ad allacciarla, il vento la portava via. Si ripeteva il tentativo, ma era complicato annodare i gerli che il freddo aveva reso rigidi. Finalmente la vela fu serrata e Lerdy, che fino a quel momento aveva sbandato, recuperò un certo equilibrio. Macaria allora ridiscese il sartiame e saltò sulla tolda, sentendosi un eroe, o quantomeno un uomo molto fortunato. Un sorriso di Rigoberta Texara, che si riparava dalla chiesura della bussola, confermò il giudizio. La natura continuava però a scatenarsi, non con grandine, bensì adesso con pioggia. Precipitava a raffiche che traevano dal veliero rombi sinistri. Dal mare scuro quanto il cielo si sollevavano banchi di nebbia. Francis Levert, alla barra del timone, era sottoposto a qualsiasi capriccio degli elementi. Osservava con terrore i fulmini che cadevano fitti, e ciò non gli impedì di pensare a una parte dei propri beni presenti e futuri. «Hubert!» urlò per sovrastare i tuoni. «Vai sotto coperta nel corridoio che contiene gli schiavi. I boccaporti sono spalancati e imbarcano acqua. Non vorrei che i nigri annegassero. Sarebbe una perdita economica spaventosa.» Per correttezza Macari interpellò le Texare che aveva udito. Posso scendere di sotto, primo ufficiale?» L'altro, ritto sulla guardiola, fece un gesto di noncuranza. «Fate pure. Siete nelle vostre 4 ore di riposo, ma attento alla campana. Appena tintinna dovete essere sul ponte.» Macari allora scese nel corridoio dei cannoni, deserto, e da lì andò al gavone degli schiavi. Aprì il saliscendi della porta. Quasi 200 tra uomini e donne dalla pelle nera, nudi, erano ammassati in uno spazio che ne avrebbe potuto accogliere al massimo una trentina. Inebetiti, terrorizzati, erano irrorati dall'acqua che cadeva dal boccaporto, chiuso da una griglia metallica dalle maglie molto larghe. A ogni scossa delle ardì cadevano uno sull'altro, facendo tintinnare le catene. Non gridavano nemmeno, erano consapevoli che sarebbe stato inutile. Quando videro l'ufficiale, lo guardarono con occhi spaventati, ma non dissero nulla. La stanza comunque non era allagata e la merce non pareva a rischio. Macari stava per ritirarsi e richiudere la porta quando si sentì chiamare in spagnolo. «Signore, signor, signor!» Scrutò tra i prigionieri. Chi lo interpellava era una giovane africana dalla pelle dorata, tendente al nero, schiacciata fra uomini molto più nerboruti. «Che cosa vuoi?» le chiese brusco. «Io mi chiamo Enrichetta, sono stata Ancela e Doña Gabriela Junot Vergara. So che siete suo amico, potreste dire alla mia padrona che sono qui? Lei è su un'altra nave.» Macari fissò la ragazza con un certo stupore. Malgrado i capelli in disordine, il viso segnato dalla sofferenza e l'evidente mancanza di sonno che le arrossava i grandi occhi nocciola, si intuiva che aveva appartenuto più alla classe dei domestici che a quella degli schiavi, buoni solo per lavorare. «E quale nave?» le domandò. «Non so come si chiami, è quella del capitan Lorenzillo.» Magari valutò se liberare la giovane e portarla sopra coperta. Scartò l'idea, non aveva le chiavi delle catene e in ogni caso penetrare la calca dei prigionieri per andarla a prendere sarebbe stato pericolosissimo. «Lo farò», promise. Chiuse l'uscio, abbassò il saliscendi e tornò sulla tolda. A dispetto del vento che continuava a soffiare, l'uragano si stava spegnendo. All'orizzonte, oltre le nuvole nere, spuntava un vago chiarore. La pioggia fitta si era trasformata in pioggerella. I banchi di nebbia si dissipavano. Però il grosso della flotta era sparito su chissà quali rotte. Rimanevano solo le Ardi, la francese e la reglita del capitano Tristan, che navigavano di conserva e avevano serrato la vela di Maestra nello stesso tempo. Gli altri vascelli, meno tempestivi, erano stati trascinati altrove. Macari, sbucato dal boccaporto, raggiunse a poppa le vertere Texar. «Sotto tutto bene, gli schiavi sono bagnati, ma per fortuna non è affogato nessuno.» Retexar stava cercando di rilevare la posizione, impresa quasi impossibile finché non fosse scesa la notte. «Grazie, secondo ufficiale, vi restano più di 3 ore di riposo. Volete un consiglio? Approfittatene. Port Royal è ancora lontano, non è detto che non dobbiamo affrontare altre burrasche. È la loro stagione qui, nei Caraibi.» «Port Royal, andiamo in Giamaica, non alla Tortuga.» «Così ha deciso il cavaliere de Grammont, decisione logica. A Port Royal venderemo facilmente merci, schiavi e altri carichi, faremo soldi da spartire una volta tornati alla base. Adesso andate a dormire, avete fatto un ottimo lavoro.» Macari si sentiva molto stanco e obbedì. Fu un sonno breve ma profondo e riposante, e ciò non gli impedì che si addormentasse riflettendo su ciò che gli aveva detto l'ancella di Gabriela e si svegliasse avendo in mente lo stesso pensiero. Al suono della campana che annunciava il suo turno di lavoro si mise in piedi, deciso a trovare un pretesto per passare sul brigantino di Lorenzini. Non ce ne fu bisogno. Appena salì sulla tolda, Rigoberta e Texara gli si fece incontro. La francese ci ha chiesto qualcuno che possa sostituire Jean Pellissier, che ha avuto qualche problema dopo la sorte capitata a Charles Ruiné. Ve la sentite? L'incarico è provvisorio. Troverete vecchie conoscenze che hanno deciso di cambiare nave, come Leverte e Bamba. Sì, certo, rispose Macari. Ma cosa è successo a Ruiné? Retexar scoppiò a ridere. Ah, lo scoprirete. Faccio subito calare una scialuppa. Prendete le vostre cose. Era tardo pomeriggio e il mare era tornato tanto calmo da cancellare il ricordo dell'uragano di poco prima. Benché basso, sul pelo dell'acqua il sole, grande e rosso, era ricomparso. Intorno svolazzavano alcuni gabbiani, segno che tratti di terraferma erano prossimi. Quella zona era del resto contrassegnata sulle mappe da isole e isolette spesso prive di nome. Il trasbordo fu facile e sicuro. La francese non era stato molto danneggiato dal fortunale. Strappi alle vele al sartiame e una piccola falle sotto il mascone di babordo. Si udivano sotto coperta i colpi di martello dei carpentieri. Macari fu accolto da Lorenzillo in persona, che lo aiutò a scavalcare l'impavesata. La francese puzzava di fradicio quanto il leardio, forse peggio. Per fortuna il cuoco, il bretone e le brass stava cuocendo la cena, e odori di legumi cotti si sovrapponevano ai fetori tipici dei vascelli che l'umidità condannava ad una rapida marcescenza. Benvenuto, esordì Lorenzillo. Qui non ci crogioliamo nella tretaggine tanto cara all'ammiraglio, porco diavolo. Si lavora ma si scherza anche, un'orchestra garantisce la musica quando occorre. E ci sono anche spettacoli imprevisti, se mi seguite al buon prezzo me ne faccio vedere uno. Un po' stupito Macari andò dietro al capitano e gli si mozzò il fiato. Dall'albero di Bonpresso pendeva, da una catena, una gabbia orribile di forma umana, appena sufficiente a rinserrare un corpo. Chi era rinchiuso nell'intelaiatura non poteva permettersi nessun movimento, né delle braccia, né tantomeno delle gambe, né della testa. Non poteva neppure gridare. Un anello metallico gli rinserrava cranio e mascella. Il disgraziato, rinchiuso nell'ordigno, doveva solo attendere la morte per fame e per sete, sperando che il sole cocente cui era esposto lo facesse svenire prima. Macari conosceva quel tipo di tormento, ampiamente usato dagli inglesi contro i pirati di altra bandiera, dagli spagnoli contro gli indigeni ribelli e filibustieri e dai fratelli della costa contro chi contravveniva agli ordini. L'uso delle gabbiette, di foggia umana o no, era fatto risalire a un condottiero italiano vissuto secoli prima, Ezzelino da Romano, ma i precedenti erano numerosi. Macari allora capì cosa si stava forgiando sulla Isla Mujeres all'atto della partenza e fissò il corpo nudo stretto nell'armatura di ferro. Non seppe distinguerne i tratti, però la conclusione sembrava logica. «È Charles Ruiné, non è vero?» Lorenzillo scoppiò a ridere. «No, per niente! Il povero Charles può essere ancora utile. Quello che vedete penzolare, Jean Pellissier, l'ex nostromo delle Ardì, diventato mio secondo ufficiale. Non è che io sia troppo generoso nella distribuzione delle cariche, lo volevo a bordo perché un anno fa me ne ha fatta una grossa e la doveva pagare.» Frastornato Macari domandò: che cosa ha fatto, se non sono indiscreto? Eravamo nei pressi dell'Havana, il mare era in tempesta e dovevamo liberarci degli schiavi buttandoli fuori bordo. Pellissier non trasmise il mio ordine, che Satana gli morda il culo. Era innamorato di una negretta e aspettava un bambino da lei. Ci la cavammo per un pelo. Lui cambiò nave, ma infine tornò sulla mia. E Charles Ruiné è perdonato? Proprio per niente. Era il compare di Pellissier. Forse al largo erano persino amanti. Io ho fatto chiudere Jean in gabbia e serrare le viti. Ruiné sarà tormentato per tutta la sua breve esistenza. Mentre diceva ciò, Lorenzillo sghignazzava. Ecco gli spettacoli extra che offre la francese. Brutto nome, lo vorrei cambiare. La mia nave è un teatro e a me piace così. Adoro la musica e le improvvisazioni. Per esempio, tra breve Pellissier cagherà. Ha smesso di vomitare, adesso defeca, sempre meno perché non mangia. Uno spettacolo di una comicità irresistibile. E bisogna che Ruiné lo veda. Magari era prossimo al voltastomaco, rimpiangeva il clima austero e tetro delle Ardi. Però bisognava che sapesse dove si trovava Gabriela. Le frasi sugli schiavi gettati a mare per fare meno peso, in effetti lo avevano sconvolto. Questi erano Black Strobe con il brano You Should Be. Ora si ripassa alla controinformazione con due azioni che ci sono state, una in Olanda e un'altra nel Regno Unito. Quella in Olanda ad Amsterdam, leggiamo il testo: nelle prime ore della scorsa settimana un gruppo di persone ha attaccato con vernice e fumogeni una stazione di polizia ad Amsterdam. Questa umiliazione era in solidarietà con Monica e Francisco, come per tutti i detenuti, i compagni detenuti. Questa mini rivendicazione finisce con uno slogan: fotti la legge del terrore, né giustizia né pace, gruppo nichilistici di autonomia Amsterdam. Invece a Glasgow, nel Regno Unito, leggiamo il testo: rivendichiamo l'attacco spontaneo nel negozio Barnados, situato nel centro commerciale di Broomhill, Glasgow, la notte del 28 ottobre 2013. Sono state rotte le vetrine del negozio con due pietre. Solidarietà con i prigionieri detenuti da parte dello Stato e delle sue istituzioni di oppressione razzista. Chiamiamo un'intensificazione di attacco contro tutti i responsabili e affiliati alla carcerazione, deportazioni e politiche razziste sugli immigrati espulsi dall'UKBA. Società di sicurezza privata come la G4S e chiunque come Barnados, che rende possibile in qualsiasi modo il rapimento e la tortura di persone innocenti. International Solidarity Fraction - FAI. Poi sotto c'è la spiegazione di Barnados. Cos'è Barnados? Barnados è una ONG per assistenza sociale e carità per i bambini che legittima il regime di controllo delle frontiere resistenti in Inghilterra e l'abuso di questi bambini. La carità gioca un ruolo equivalente alla Croce Rossa Italiana, che diversi compagni hanno toccato a volte a causa del suo ruolo nella pace umanitaria e rilievo dei rifugiati. Questi erano i due testi delle due azioni, questa qua di Glasgow, addirittura di ottobre, ma praticamente si è venuta a conoscenza ora e quindi la leggiamo ora, anche perché comunque è sempre rinnovabile l'invito all'identificazione, come dicono i compagni, di attacchi contro i responsabili e gli affiliati alla carcerazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Block 57 con il brano This Way, e poi dopo si torna qui e si continua con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. We'll be right back. Come Macari già sapeva per esperienza, navigare con Lorenzillo significava essere esposti alla bizzarria e alla crudeltà all'inventiva. Il più famoso, dopo De Grammont, dei capitani della filibusta, era tanto intelligente quanto imprevedibile. Dell'agonia di Pellissier faceva uno spettacolo e spesso induceva Bamba a ballare proprio sotto la gabbia in cui il disgraziato consumava la lenta agonia. Al tempo stesso trattava con ogni riguardo Philippe Calois, forse l'ufficiale più serio ed esperto che avesse la flotta che aveva preso Veracruz, ora ridotta a 3 navigli. E lo stesso valeva per François Le Bon, l'anziano nostromo. E invece Charles Ruinet non aveva ruolo alcuno. Umiliato in ogni maniera, sostituito da Macari nel compito di secondo, si aggirava per il veliero senza sapere che fare. Unico incarico, certo, pulire il ponte di Brouhaha ogni volta che l'amico morente, sospeso al bon presso, lasciava cadere vomito o feci, cosa sempre più rara. Dall'intelaiatura di ferro cadeva piuttosto sangue, in conseguenza dei tentativi del prigioniero di trovare una posizione meno dolorosa tra i ferri che gli piegavano le carni. Mentre la francese veleggiava verso Port Royal, Lorenzillo sembrava avere una sola preoccupazione: trovare al brigantino un nome più adeguato, tale da non ravvivare negli inglesi i loro pregiudizi. Dopo parecchi tentennamenti trovò la denominazione che gli parve ideale: Neptune, o Neptune alla francese. Non è molto originale, spiegò De Graff a Calois e a Macari. Tuttavia presenta un vantaggio: sia i francesi, sia gli anglosassoni, sia gli olandesi possono intenderlo senza ascriverlo ad una nazionalità precisa. È questo che ci serve, dannato sia il demonio, anche se il cavaliere De Grammont non sarà molto d'accordo. Smarcarci dalla Francia, che ce lo vuole mettere nel culo. Agire da indipendenti quale siamo, a partire dal nome. E dunque non consegnare al governatore della Tortuga il 10% del bottino? Chiese Calois perplesso. Beh, bene o male la lettera di marca ce l'ha firmata lui. Questo lo vedremo. Intanto la francese diventa il Neptune. 44 cannoni, 210 uomini, non male per un brigantino. Faranno a gara per assoldarci, statene sicuro. Tutta Europa ha bisogno di combattere la Spagna per interposta persona. Da quel momento un buon quinto dell'equipaggio fu impegnato a dipingere sotto i mosconi Neptune in luogo di La Francesa, in caratteri ben visibili. Lo stesso fu fatto sotto il giardinetto di poppa sopra il timone. Dalle navi affiancate, i Leardi e il Re alla Reglita non vennero domande. Il vento soffiava a favore, l'andatura era sostenuta. Finalmente la cupezza era dissipata, regnava un certo ottimismo. Ciò non valeva per Macari, che si domandava dove fosse Gabriela. Al terzo giorno di navigazione, doppiato lo Yucatan in prossimità delle isole Cayman, da quasi 3 lustri sotto il dominio inglese, l'urgenza di chiederlo superò ogni prudenza. Era però difficile trovare chi gli desse informazioni. Calois, da bravo di Ugonotto, non parlava di argomenti futili. Levert non sapeva nulla. Padre Labat conveniva a non avvicinarlo. Interpellati inutilmente alcuni membri della ciurma, Macari non restò a suo malgrado che porre la domanda a Ravenot de Lussan. Nella sua veste di chirurgo di bordo aveva infatti accesso ad ogni angolo del veliero. Era scontato il ghigno offensivo del gentiluomo. «Mon ami», disse, aggrappato al sartiame sotto l'albero maestro, «certo che so dov'è. Doña Gabriela Junot Vergara è uno splendido esemplare femminile e vederla soddisfa il mio gusto estetico. Trovo sempre pretesti per visitarla ogni giorno. Preferirei ogni notte, ma devo accontentarmi». «E in quale settore del Neptune l'hanno rinchiusa?» ansimò Macari. «Perché non sale mai sul ponte?» Da quando ha smesso di assistere la defunta Claire de Grammont ha perso non pochi privilegi e è tornata ad essere un ostaggio da rivendere. Per i suoi meriti passati non sta nel gavone degli schiavi, questo no, ma è in uno stanzio nel quadrato di poppa, quello che occupava Jean Pellissier. E non ne può uscire». Macari fece per allontanarsi, ma De Lussan lo trattenne per un braccio. «Credetemi, io non credo che vi convenga andare a trovare la vostra bella. Lorenzillo l'ha proibito. E vedete lassù da voi cosa accade a chi disobbedisce a Laurent Cornelius de Graff». Il chirurgo indicava l'armatura che, pendente dal bonpresso, stringeva il corpo nudo di Pellissier. Ne usciva un lamento costante e fastidioso. tutto ciò che il condannato con le mascelle serrate riusciva ormai a mugolare. «È là da giorni e non si decide a morire», commentò De Lussan e scoppiò a ridere. «Scommetto che prima o poi qualche europeo presenterà alla filibusta quale regna della libertà, una sorta di repubblica ugualitaria. Dovrebbe vedere come trattiamo i nostri schiavi e i nostri prigionieri. Se non hanno valore economico, sono puri giocattoli da vendere o torturare. Ma a me va bene così, nessun moralismo, solo arricchirsi e spendere. Sono nuovo dei fratelli della costa, però aderisco in pieno al loro credo». Ma magari quei discorsi semifilosofici farneticanti non interessavano affatto. Dunque Gabriella aveva una stanza sua nel quadrato ufficiali, mentre stava per tornare alle proprie mansioni in attesa di avere l'occasione per scendere a poppa, De Lussano lo trattenne. «Amico mio, io dovrei chiedervi scusa e perdono. Il termine amico infastidiva, magari che ciò nonostante decise di sopportare quell'intimità non voluta. Scusa per che cosa?» «Per essermi fatto passare per voi con Marie Floretti. Ho lanciato un nome a caso e alle labbra mi è venuto il vostro. Non potevo darle certo il mio. Se fossi stato scoperto si sarebbe capito che avevo rubato io la vita Alba ex Gemelling per conto di Lorenzilio, a sua volta ispirato da... No, questo non ve lo dico, ve lo lascio immaginare. Voi! Siete stato voi!» Travolto dall'indignazione, Macari boccheggiò, portò la mano alla sciabola, dello sangue rise in faccia. «E chi altri, se no? Pensateci un attimo, chi avrebbe potuto riconoscere l'estratto di Vitalba in un vasetto privo di etichetta se non un altro medico? E anche se l'etichetta ci fosse stata, e mi pare di no, però potrei sbagliarmi, quanti tra i fratelli della costa sanno leggere? A essere ottimista, direi 1 su 10. «Non avete un'arma. Trovatene immediatamente una». Magari era sdegnato tanto che tremava. «Ci battiamo qui, subito vi sgozzerò come un pollo». «Andiamo. Lasciate perdere il teatro, vi ho appena detto che ho agito sul mandato di Lorenzilio. Volete trovarvi al posto di quel burattino lassù?» Ora serio ma perfettamente calmo, De Lussano annicò di nuovo l'armatura che racchiudeva Pelissier. «Per farmi perdonare posso farvi un grande favore tale da spingervi a dimenticare i vostri nobili impulsi, anche se omicidi». «A cosa alludete, furfante?» «A Gabriella Giuno Vergara. Se delego a voi il compito di visitarla per mio conto, avrete modo di andare a trovarla ogni volta che vorrete». Magari combatté con la propria coscienza, con la propria indole, ma finì con ritirare la mano dall'elsa della sciabola. Per non darsi del vigliacco, scivolò su un altro pensiero che lo tormentava. «Non riesco a credere che un uomo come il capitano De Graaf si sia abbassato a truccare un duello», sussurrò. Ma il duello in sé non era affatto truccato, Lorenzilio avrebbe anche potuto soccombere e rimetterci la vita. «Ha solo preso le giuste precauzioni per fare a Fanorn tutto il male possibile in caso di vittoria. È umano, è dannatamente umano». Di fronte al silenzio attonito di Macari, De Lussan scosse il capo, reggendosi alla sartia sedette sul bordo del bastinaggio. Frugò con la sinistra la tasca della giacca alla ricerca della pipa e intanto faceva ballare le gambe come un bambino seduto su un muretto. In effetti, sul suo viso, improntato all'ironia, c'era qualcosa di infantile e al tempo stesso di perverso. «Io ho già avuto modo di dirvelo, amico mio. Non cercate cavalieri erranti nei Caraibi, né codici morali, siamo canaglie, tutto qua, pronti alla nefandezza e al tradimento. Se qualche re ci appoggia è per il vantaggio economico che gli offriamo, ma sa benissimo chi siamo, così come noi sappiamo chi è lui al di là della pompa. Eppure questo è umano, fin troppo». Disgustato, Macari non vedeva l'ora di allontanarsi. Un'ultima domanda tuttavia si imponeva. «Quando potrò visitare Gabriele allora nel quadrato?» «Ma anche subito se volete». Curvo in avanti per accendere la pipa, De Lussan sogghignò un'ultima volta. «Avvertirò Lorenzilio e state certo del suo consenso. Lui la pensa esattamente come me. Siete strana gente voi, virtuosi a oltranza. Prima o poi dovete tradire la morale a cui vi ispirate. È inevitabile, non corrisponde alla natura dell'uomo. Siete persino capaci di fare rivoluzioni per mantenere una coerenza impossibile. Ma alla fine, noi cinici siamo ad avere la meglio. È sempre stato così e sempre così sarà». Macari non capì una parola del pistolotto, ebbe solo conferma del suo odio nei confronti del damerino de Lussan. Alla prima occasione, quel damerino avrebbe pagato la repulsione che gli ispirava. Intanto, comunque, un punto lo aveva guadagnato. E allora si avviò verso poppa, risoluto a scendere nel quadrato. Il mare era quieto, il rollio leggero, si avvertiva il profumo delle verdure che l'ebra e il cuoco stava cucinando sotto coperta e dei pezzetti di lardo sfrigolanti che vi aggiungeva per dare alla pietanza più vigore. Fu fermato da Calloa. «Dove state andando?» «Il mio turno è quasi terminato, sta per suonare la campana.» «Sì, sì, ma ancora non ha suonato.» Il primo ufficiale indicò il buon prezzo e il suo tragico fardello. «Pellissier è morto poco fa, mi hanno detto. C'è da calarlo e da gettare la sua carcassa in mare.» «E devo farlo io.» «Sì, ma non da solo.» Charles Inepi darà una mano. Calloa si strinse nelle spalle. Sono ordini di Lorenzillo. A Macari non restava che eseguire. Si portò a prua e sotto la gabbia che pendeva da una catena manovrabile con un piccolo argano e una manovella. Rouenet sedeva su un cumulo di manovre dormienti, inebetito. Guardava fisso davanti a sé, aveva gli occhi arrossati. Macari, contravvenendo agli ordini, non osò disturbarlo. Vide Bamba che scendeva da una sartia del trinchetto e lo chiamò. «Ehi tu, vieni ad aiutarmi, dobbiamo calare il morto.» Fu molto facile. Pesava più l'intelaiatura di metallo che il corpo che racchiudeva. Il fetore era orribile, come se Pellissier si fosse putrefatto già da vivo. La pelle ustionata e chiazzata dal sole gli si sollevava sulle ossa. La frizione con la gabbia gli aveva aperto piaghe purulente. Non c'era lembo della sua epidermide che non fosse infettato. «Dobbiamo aprire l'armatura e tirarlo fuori», chiese Bamba che si turava il naso. Seminudo com'era, mostrava chiaramente il terrore di contrarre a contatto con la sarba morbi imprevedibili. «No», rispose Macari, «stacchiamo il gancio della catena e lo gettiamo ai pesci così come gabbia e tutto.» Così fecero. Il sacello di ferro sprofondò nel mare proprio mentre la campana che scandiva le ore annunciava il cambio di turno. Pellissier non ebbe altre celebrazioni. Nello stesso momento, dalla coffa dell'albero maestro, Jean-Baptiste Renard annunciò: «Terra! Terra in vista! Deve essere la Giamaica!» E gli rispose una voce della coffa di trinchetto: «Sì, lo è! Siamo arrivati nel punto giusto! Mi sembra di scorgere le fortificazioni di Port Royal!» Sulla tolda vi fu un'esplosione di allegria. Gli avventurieri lasciarono le loro occupazioni e corsero al bastinaggio ansiosi di vedere, quantomeno da lontano, la città dalle mille promesse. We'll be right back. Dopo questo brano degli Imperative Reaction Arroganza, passiamo alla controinformazione. Diamo gli ultimi due aggiornamenti riguardo l'udienza al processo delle CCF, mentre sul blog potete anche andarvi a rileggere tutte le udienze che vanno da fine settembre quasi ad ora. Allora, si parte direttamente dall'udienza 86, quindi 86-87, le ultime due udienze. L'udienza comincia con la lettura dei documenti riguardanti gli arresti di individui durante il dicembre 2010. Queste persone hanno negato di avere alcun rapporto con la cospirazione delle cellule di fuoco. Vale la pena notare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie hanno accusato compagni membri delle CCF per questo caso pure. In particolare tra di loro sono stati descritti come operatori, comandanti che istruivano le persone arrestate nel mese di dicembre. Nell'udienza 87 un compagno delle CCF all'inizio dell'udienza ha interrotto lo svolgimento del processo prendendo parola su ciò che è stato detto nell'udienza precedente. In particolare ha ricordato: essendo ormai avviati verso la sentenza finale, voglio fare un commento sulla presentazione del caso delle CCF. Come sapete, le autorità inquirenti hanno commesso una contraddizione perfetta. Nel caso del mese di dicembre, tra di noi che hanno assunto la responsabilità per la nostra partecipazione alla cospirazione, sono stati presentati come leader, accusati di dare ordini alle persone che non hanno nulla a che fare con noi. Dal lato siamo definiti come un'organizzazione anarchica terrorista e dall'altro ad alcuni di noi viene dato il ruolo di leader. La domanda è semplice: come è possibile per gli anarchici adottare la leadership? Come gli anarchici, come anarchici siamo contro ogni forma di autorità, eppure leggiamo i rapporti che parlano di leader, circa comandanti, circa gli ordini impartiti dal carcere. Tutti questi sono in piena sintonia con il ragionamento di procuratori che giusto un po' di tempo fa ci hanno perseguiti per istigazione al progetto internazionale Phoenix. Il motivo per cui siamo stati accusati è il saluto che abbiamo dato da questo tribunale ai compagni del gruppo illegale delle CCF che fece esplodere l'auto appartenente al direttore delle carceri di Cori d'Allos. Tuttavia la nozione di presuppone che incitiamo separati ruoli. In ordine ci deve essere un autore per l'esistenza di un istigatore. La mente è il carnefice, ordinare e obbedire. Potrei passare ore enumerando uno per uno la mancanza di prove che forma tale ragionamento che costituisce una tale accusa. Ci sono innumerevoli contraddizioni che degradano completamente la carica dell'esistenza di ruoli manageriali. Tuttavia non faremo e non sceglieremo l'interpretazione penale delle accuse. Al contrario, tutti i nostri interventi sono stati effettuati per fare luce nella prospettiva anarchica. Questo è il motivo per cui noi non prendiamo l'accusa di leadership come un'accusa, ma come una calunnia. È un fatto ben noto che in ogni guerra la propaganda gioca un ruolo cruciale. Goebbels, ministro di Hitler di propaganda, diceva: se dici una bugia abbastanza grande e continua a ripeterla, la gente finirà per crederci. Nel caso della guerriglia urbana anarchica, l'autorità utilizza ogni possibile mezzo per presentare mostri e realtà invertite. Quante volte abbiamo sentito sulla vita di casuali cittadini passeggianti che è stata messa in pericolo? Quante volte hanno i palazzi governativi, ambasciate e prigioni che abbiamo attaccato presentarsi come proprietà del popolo? O quante volte i poliziotti o neo-torturatori nazisti sono stati chiamati vittime innocenti? Ma il potere non si limita a questo. Essi non esitano a calunniare noi presentandoci come una rappresentazione di se stessi. Noi stiamo presenziando in quanto organizzazione gerarchica con dirigenti, soci, imposte, sanzioni, mandati e ordini. Date un'occhiata a questa follia, parole familiari del potere, come dirigenti, mandanti, sentenze che sono stati forgiati in modo da attribuirli a noi. Ma il motivo per cui abbiamo scelto di creare le CCF è proprio perché noi non desideriamo i leader, ci rifiutiamo di prendere ordinazioni e ci prendiamo la nostra vita nelle nostre mani. Le CCF sono un'organizzazione anarchica informale che sostiene la rete FAI-FRI. non siamo anarchici, perché non accettiamo di essere né leader né seguaci. Noi siamo informali, perché noi non accettiamo modelli centrali e forme che generano specializzazioni e ruoli. Il ruolo del leader, l'esecutore, il teorico, il ladro, il bomber limita la creatività generando autorità. C'è l'autorità informale che mente nelle relazioni sociali, che accresce il potere istituzionale. Le persone che accettano il loro ruolo di autorità comunicano tanto e svolgono solamente dei semplici compiti. Per noi i rapporti sono fluidi e basati sullo sviluppo delle competenze di ognuno. Max Stirner, che è stato citato dal Pubblico Ministero nella sessione precedente, nel suo libro L'unico e la sua proprietà, ha scritto: baso il mio caso su nulla. Anche se Stirner era un pensatore accademico e non aveva alcun rapporto con l'anarco-individualismo di Prassi, ha abilmente messo le fondamenta che il nulla di Stirner è il costante sviluppo, il punto in cui l'individuo sia il costruttore che il distruttore. È il principio eterno che costantemente annulla tutto al fine di dare vita al nuovo. In questo ragionamento non c'è spazio né per leaders né per subordinati. Tuttavia l'autorità insiste su di noi presentando un'immagine al fine di negare la nostra esistenza. Questo è il secondo passo dopo la propaganda di guerra: negate l'esistenza del nemico. L'autorità dice: non sono presenti gli anarchici, ci sono solo alcuni paranoici terroristi che danno ordini, che hanno comandanti centrali invisibili e reclutano membri per i loro fini oscuri. Si dimenticano che in questo modo ci presentano come un'immagine di loro stessi. Non mi piace parlare a lungo circa l'ovvio. In chiusura userò una frase della storia di Erodoto. C'erano una volta tre persiani che stavano a discutere il sistema politico ideale, e uno era per la monarchia, il secondo per l'oligarchia e il terzo dice: io non voglio né governare né essere governato. Questo è il principio che caratterizza le relazioni all'interno della cospirazione. Nell'udienza 86 è continuata la lettura dei documenti riguardanti il processo. Questi erano gli aggiornamenti delle ultime tre udienze, di cui si ha l'aggiornamento per il processo del CCF in Grecia. Lo ricordo, sul blog potete andarvi a rileggere anche le udienze che vanno dal 66 fino al 85, quella la precedente a quella con cui abbiamo iniziato a dare aggiornamenti durante la diretta. Quindi per chi ci tiene, se le può leggere sul blog di radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Absurd Minds con il brano Pendulum Swing, e poi dopo si torna qui con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. its tides, the pendulum swings, manifests in everything, rhythm compensates, all things rise and fall, the pendulum swings, it all flows out and in, life has its tides, all things rise and fall, the pendulum swings, manifests in everything, rhythm compensates, everything has its highs, the pendulum swings. Lerdi, il cavaliere De Grammont interpellò Lorenzillo. Capitano, è molto difficile che il governatore Lynch ci lasci approdare, gridò. È meglio che mandiamo a terra una delegazione per annunciare lo sbarco e chiarire le nostre intenzioni pacifiche. D'accordo, ammiraglio, e chi mandiamo? Andiamo noi stessi? Oh no, noi siamo troppo conosciuti, cavaliere. Conviene che vadano il capitano Tristan, se se la sente, e qualche ufficiale. Noi gettiamo le ancore qua, a distanza di sicurezza da Fort James e da Fort Charles. L'ammiraglio alludeva ai due potenti fortilizi che difendevano Port Royal, rocche massicce, irte di artiglieria imprendibili e inattaccabili. E non erano l'unica difesa della colonia inglese. Le sue coste peninsulari apparivano protette da tratti di mura, nidi di cannoni, sistemi difensivi. Inoltre, erano molti i veliri da guerra alla fonda nell'ansa detta Chocolate Hole. Alcuni di essi stavano spiegando le vere per correre a fronteggiare l'eventuale nemico. Il sole meridiano tingeva l'abitato e i castelli di rosso e l'acqua rifletteva quel colore. Emanava da Port Royal un acuto senso di minaccia. Lorenzillo scorse Macari che gli girava intorno e si avviava verso il quadrato. Secondo ufficiale, dove state andando? Accompagnerete Tristan in città, prendete sotto coperta lo stretto necessario e tornate sulla tolda. Intervenne Calloa. Ma è il suo turno di riposo, capitano. Macari è un buon soldato e dà sempre il massimo, ha diritto a qualche ora di calma. Lo so che è un buon soldato, rispose Lorenzillo sorridente. È proprio per questo voglio che faccia parte della delegazione. Si riposerà stanotte in qualche taverna, magari in compagnia di una femmina. Meglio che su una maca o su una branda infestata dai pidocchi. Macari bramava incontrare Gabriella, tuttavia non protestò. Scese a prendere l'essenziale mentre il Neptune, le Ardì e la Reglitta gettavano l'ancora. Quando risalì, era stata messa in mare una lancia. Stava per scendere la scaletta quando Lorenzillo lo fermò e gli porse due involti chiusi in una cera lacca. Una busta è una mia lettera al governatore Lynch. L'altra è un messaggio a mia moglie Priscilla, che non so nemmeno se si ricorda di me. Lo sguardo di Lorenzillo, normalmente così vivace, per un attimo si velò di tristezza. La prima consegnatela a mano, la seconda invece datela a qualche comandante diretto in Spagna. Ce ne saranno, formalmente inglesi e spagnoli. Adesso non sono in guerra, o almeno credo. Magari prese i due plichi, Lorenzillo gli batté amichevolmente sul braccio. Era sconcertante come un uomo crudele oltre ogni limite potesse risultare a tratti così simpatico. Vi ringrazio, amico mio. Non temete per la vostra dama, nessuno la toccherà, state sicuro. Crepato Fanorn, qui non restano che galantuomini. E così Macari ebbe conferma che la sua attrazione per Gabriella era ormai nota a tutti. Ne fu un po' imbarazzato, ma non più di tanto. In fondo non l'amava, se non per il suo viso e per il suo corpo rigoglioso. Una storia comune tra i filibustieri, si disse. Anzi, la donna gliene aveva già fatte di cotte e di crude. Però un certo disagio lo provava. Raggiunse la scaletta che pendeva a babordo, atterrò sulla plancia che oscillava nella schiuma a ridosso della fiancata. Sopra, a bordo, c'erano Tristan a prua e Texar al timone, ai remi, Beguelli. Scelto di certo per la sua conoscenza della lingua inglese, e Jean-Félix Guarin. Dopo un breve sbandamento, la scialuppe mosse in direzione di Port Royal. Il capitano Tristan era un uomo dalla barba rada di media statura, magro ma non esile. 2 anni prima si era fatto conoscere quando, nel golfo di Darien, aveva rubato una barca longa e, con un equipaggio di soli 5 uomini, si era dato alla pirateria. Nessuno conosceva il suo passato. Alcuni dicevano che fosse olandese, ma dall'accento non si sarebbe detto. Approdato alla Tortuga, aveva accompagnato in qualche impresa Le Sage e Adriaenzoon, tanto da meritarsi il comando della Reglita. Era un uomo ancora giovane, taciturno, elegante e di modi cortesi. I boccoli scuri che gli cadevano sulle spalle gli conferivano un certo fascino. Forse il personaggio ideale per intavolare una trattativa. Non vi dovete spaventare per le navi che ci vengono incontro, spiegò Tristan al piccolo equipaggio della lancia. Gli inglesi della Giamaica non vogliono intorno altri avventurieri che non siano i loro, e di certo avrebbero bloccato i brigantini armati di tutto punto. Una barca come la nostra la lasceranno passare. L'Inghilterra e la Francia, per quanto ne so, in questo periodo non si combattono. Allora non si combatte nessuno, qualcuno mormorò sornione. In effetti le fregate uscite da Chocolate Hall non percorsero che un breve tratto, poi tonneggiarono in attesa che i visitatori fossero a portata di voce. Erano navi possenti con 2 file di cannoni per lato. Sulla tolda si muoveva un vero esercito armato di fucili e balestre. Di che nazionalità siete? Chiese in inglese un ufficiale vestito di rosso, una parrucca bianca e un tricorno nero. Aveva un viso grassoccio e infantile rigato dal sudore. Dimostrava meno di 30 anni e doveva essere nuovo in quei mari. Tristan salutò rispettosamente con il cappello piumato. Siamo francesi, veniamo solo a proporre onesti commerci di beni e di schiavi. Le navi devono rimanere fuori del porto. Lo sappiamo, così faranno, sono già ormeggiate. Tristan, pur incespicando nella lingua, sapeva essere persuasivo. E chi sono i comandanti? Il cavalier Michel de Tramon, il capitano Laurent de Graff e tale Tristan. L'ufficiale inglese impallidì, altrettanto fecero i commilitoni che aveva attorno. Sono fra quelli che hanno saccheggiato Veracruz poche settimane fa. Esatto, signore. E ciò vi dimostra che le nostre navi hanno carichi di merci preziosi da vendere o scambiare, incluse spezie, stoffe e oreficeria. Più carne umana di prima qualità, negri robusti, tra cui non mancano le donne. Sul ponte della fregata inglese avvenne una rapida consultazione. Al termine l'ufficiale tornò ad affacciarsi. Va bene. Proseguite fino alla Fisher's Row. La riconoscerete perché è fitta di piccole imbarcazioni, ma attenzione! Se siete spagnoli camuffati non avete idea della sorte che vi aspetta. Non siamo spagnoli, e allora passate. Big Willy e Guerin ai remi ripresero a vogare. Lo sbarco alla Fisher's Row, quando imbruniva, fu privo di difficoltà. Nessuna guardia, nessun dazio, nessuno che chiedesse la consegna delle armi. E chi mai l'avrebbe fatto nella città che rappresentava il cuore della filibusta inglese, la patria stessa dell'illegalità? Gli avventurieri, ormeggiata la barca fra molti natanti a vela poco più grandi del loro, salirono una scalinata. Si trovarono allora nella Fisher's Row vera e propria, una via dritta che costeggiava il mare, fatta di casupole a 2 piani e di ampi magazzini. Vi si lavoravano il pesce, le tartarughe e i gamberi. Lo si capiva dalla puzza soffocante che prendeva alla gola e sollecitava il vomito. Nugoli di zanzare si spostavano veloci in cerca di prede come i pirati. Tristan indicò verso nord. Vedete quelle luci là in fondo? È la Captain Fuddle Tavern, uno dei locali più conosciuti di Port Royal. Ci sottrarrà questo tanfo, ma attenti ai piedi. lacciottolato e pieno di buche. E cosa andiamo a fare in una taverna, direttore Texar? Beh, c'è ancora una mezz'ora di luce, dobbiamo comunicare col governatore. È presto per darci ai bagordi. Tristan sorrise. E credete che se ci presentassimo a palazzo Lynch ci riceverebbe? Ci serve un intermediario, io ho in mente chi, guardate là. Indicò il Chocolate Hall e le numerose navi alla fonda. La sorte ci favorisce, non notate un velire dal profilo familiare? Tutti guardarono da quella parte. Big Willie esclamò: ah, ma c'è il Mayflower! È del capitano John Cox. È la prima imbarcazione su cui ho servito. E se conosci John Cox, capirai che non può essere che alla Cat and Fiddle, il Green Dragon, l'Unicorn e altri pub. Sono troppo piccoli per le sue voglie smisurate. Ognuno dei presenti sapeva chi fosse John Cox. Era uno degli avventurieri inglesi che, come George Spurr, occasionalmente approdavano alla Tortuga o a Petit Goave per partecipare alle spedizioni dei Fratelli della Costa. Amico di tutti, fanfarone, carnale, sempre un po' ubriaco, non era fra i sostenitori del libero commercio nemici del monopolio spagnolo. A lui interessavano i liquidi, alcol, denaro da sperperare e le prostitute. Per soddisfare i suoi vizi era pronto a inalberare qualsiasi bandiera, salvo quella della Spagna dominata dalla Bretagna. Messo piede nella Cat and Fiddle, un edificio a due piani adiacente a Fort James in mattoni rossi come quasi ogni casa di Thames Street, i filibustieri videro subito il capitano del Mayflower. Assiso al tavolo più ampio con davanti una caraffa di vino rosso quanto il suo naso, concionava ad alta voce, seguito con trasporto da un gruppetto di ragazze adoranti, alcune in piedi e da un paio di compagni. Tra i bicchieri e le altre caraffe vuote scintillavano alcune monete d'oro che forse giustificavano l'attenzione delle fanciulle. E allora decisi di sbudellarlo con la mia spada. L'insolente gridò al tradimento: ma la cosa non mi toccò. È forse peccato tradire un porco. Il sole era a picco e Darien bruciava davvero. Nonostante ciò, assistevano al duello centinaia di persone disarmare il vigliacco al primo assalto. Lui strisciò sul terreno cercando di recuperare la sciabola. Allora io... Cox allora si interruppe e posò il bicchiere. Ma chi vedo? Big Willy. Il vecchio Willy, Re Texar, Tristan. No! Camilla, my friend. Cosa diavolo fate a Port Royal? Mentre raggiungeva il tavolo, Macari si guardò attorno. Non gli era chiaro se quella fosse una taverna o un bordello. Sulle pareti e perfino sulle volte erano dipinte scene vagamente lascive, annerite dalle torce, ma lo spettacolo era in sala. Le donne, di ogni età e di ogni razza, erano più numerose degli uomini e tante di loro stavano a seno nudo. I clienti, a parte un gruppo di ebrei con barba lunga e zuccotto e pochi soldati, indossavano abiti un po' troppo eleganti e vistosi per esserseli guadagnati con un lavoro onesto. Parecchi di loro avevano il viso deturpato da cicatrici o erano privi delle dita di una mano, se non dell'intero braccio. Le armi che portavano, malgrado chissà quanti divieti, non erano affatto ornamentali. Sciabolotti d'arrembaggio, navajas, coltelli, pistole... Al banco dava ordine alle servette una virago della profonda scollatura che mostrava seni vizi e cascanti. Sudava per lo spiedo che sfrigolava dietro di lei e a intervalli regolari se ne usciva in bestemmie. Faceva scivolare sul banco verso il personale boccali di birra scura che nel viaggio perdevano un quarto del loro contenuto. La spillava da alcune botti un ragazzino indigeno, indaffarato anche. Ogni tanto con i barili di vino, di whisky e di rum. Le candele accese affumicavano i prosciutti di porco e di cinghiale che pendevano dalla volta, mescolando le loro esalazioni a quelle delle pipe. «Dobbiamo vedere il governatore Lynch», disse Tristan mentre si sedeva. «Cox», represse un singulto. «Dovete solo aspettare. Di solito arriva un po' più tardi». Thank you. are at the last hour of a sinking civilization. Shock. John Cox emise un rutto possente e chiamò una servetta. «Basta vino, quello che avete è disgustoso, passo alla birra, come si fa al nord!» «È così, miei amici. Portane 3 caraffe per iniziare, saranno sufficienti. Mi raccomando, bicchieri per tutti!» L'inglese soffocò uno sbadiglio e si appoggiò col gomito sul tavolo, reggendo con il mento con la mano. «Tristan, immagino che per sbarcare qua abbiate avuto i vostri problemi. Proprio così, abbiamo dovuto lasciare le navi al largo e approdare con una lancia. E ti spiego io il perché. Gli spagnoli hanno capito l'antifona e adesso hanno anche loro dei corsari. Il peggiore si chiama Juan Corso, che ha per alleato un veneziano, Giorgio Nicola. Comandano 2 navi leggere dal nome simile, El León Coronado ed El León. si riferiscono alla bandiera della Repubblica di Venezia per cui fingono di combattere. Ci hanno già assaliti due volte. Ecco perché il governatore accoglie solo navi dalla provenienza più che certa. La servetta intanto aveva portato la birra e Tristano ne assaggiò la schiuma imperlandosi i baffi. Corso, non so chi sia, e con Venezia non abbiamo rapporti, siamo quelli della Tortuga, vecchi alleati vostri, non è sufficiente? Cox ruttò di nuovo, alleati? E chi lo sa, dipende da ciò che decidono in Europa i parrucconi, e mandò giù una sorsata di birra da strozzare un bue. Non tossì nemmeno, batté sul tavolo il boccale di ferro. Tristan, piantala con la politica. Né io né tu ne capiamo un accidente. Guarda piuttosto quanti bei culi abbiamo qua attorno. Approfittane che si campa una volta sola. Tristan fece girare lo sguardo sul locale che in effetti era il tempio stesso della prostituzione, offriva un intero campionario di carni scoperte, da quelle avvizzite a quelle fresche e rose. Alzò le spalle. Non siamo qui per questo, John. Non hai sentito di Veracruz? Cox sobbalzò, tanto che versò un po' di birra. Non dirmi che c'eri anche tu. Ma sì, adesso capisco perché siete qui. Se ne parla per tutti i Caraibi. E una gran risata gli fece tremolare la pappagorgia, carezzata da un pizzo setoloso precocemente ingrigito. Afferrò per la vita due delle ragazze che lo attorniavano, una bionda e una rossa. Guardate questi miei amici, bellezze. Al momento sono i più ricchi che ci siano per mare. Hanno svaligiato la capitale degli spagnoli, capite? Questa è la vostra notte fortunata. Le due giovani, formose ma tutt'altro che belle, ridacchiarono e batterono le mani. Gli occhi di Macari non presentavano alcun interesse, si era convertito, anche se di recente, alla classe e all'eleganza. Quei visi volgari, truccati all'eccesso, gli procuravano disgusto. Ma non era così per Big Willie. Mentre Guerin, probabilmente omosessuale, si concentrava sulla birra, l'irlandese non smetteva di divorare con le pupille accese le altre due ragazze sedute alla tavolata. Due mulatte abbastanza graziose, forse gemelle, visto che avevano in comune il naso troppo lungo e un vago strabismo. Re Texar fu costretto a richiamarlo all'ordine con una gomitata. Cox continuò. Immagino che là fuori, additò la porta a indicare il mare, ci siano tutti gli altri, il cavaliere de Grammont, quel diavolo di Lorenzillo, Adrizzon, Van Horn. Adrizzon non c'è, rispose Tristan, e Van Horn è stato ucciso. Cox spalancò gli occhi tondi. E da chi? Da Lorenzillo. Beh, suppongo che prima o poi dovesse accadere, si detestavano. Cox, insoddisfatto del bicchiere, afferrò una caraffa e la portò alle labbra, versò la birra per metà in gola e per metà sul mento e colletto. Puzzava di acido. Se siete venuti per piazzare il bottino, però non credo che Lynch vi lascerà fare. Oh, certo, è stato il primo a compiacersi della presa di Veracruz, ma non può irritare la Spagna a genio di ricettatura. Tristan prese dalla saccoccia che gli pendeva dalla cintura alcune monete d'oro che fece rotolare sul tavolo. Abbiamo buoni argomenti per convincerlo. Sorrise alle ragazze. Quei pezzi da otto, figliole, sono tutti vostri, amiche mie. È un segno di amicizia. Le prostitute si affrettarono ad afferrare le monete prima che cadessero. Altre donne si avvicinarono, attirate dal tintinnio. Guerin si tirò indietro prima di essere toccato. Big Willie si trovò quasi in braccio una delle mulatte dal naso lungo e ne approfittò per insinuarle la mano sotto la sottana. Lei rise, ma intanto fece scivolare i pezzi da otto raccolti nella scollatura entro il busto slacciato per metà. John Cox scosse il testone. Non so se questa volta il denaro sarà sufficiente a persuadere Lynch. Spira altra aria. Ah, ma eccolo che entra, domandatelo direttamente a lui. La porta della Cat and Fiddle si era spalancata. Due servitori in livrea precedettero Sir Thomas Lynch, governatore della Giamaica, scortato da un soldato con un moschetto sulla spalla. Tutti i presenti si alzarono, s'erano seduti e si inchinarono, incluse le virago al bancone e le prostitute. Il governatore, che aveva servito come colonnello nell'esercito inglese, quale unico titolo nobiliare aveva il cavalierato, non somigliava affatto ai satrapi obesi così comuni in area caraibica. Piccolo, magro, pieno di energia, non sembrava il tipo da dare peso alle medaglie e decorazioni che gli appesantivano la casacca bianca, lasciata aperta sulla camicia e sul gilet. La parrucca era un po' di sbieco e incorniciava un viso scarno dall'espressione astuta. Portava al collo, allacciato alla meno peggio, un foulard verde, fuori ordinanza. Lynch vide subito i nuovi clienti della taverna e andò al loro tavolo. Le ragazze scapparono via. Il governatore sedette e si fece aria con il tricorno. «Oh, qui si soffoca, goddamn!» disse a Cox. «Buonasera, John. Credo di sapere chi sono i tuoi amici. I francesi della tortuga, non è vero?» Benché ormai ubriaco, Cox riuscì ad assumere un atteggiamento riguardoso. «Yes, Sir Thomas. Se volete ve li presento. Ecco il capitano Tristan che comanda il Nuestra Signora de Regla. Poi c'è Rigoberta Texar, il braccio destro del Cavaliere de Grammont. Gli altri sono... non mi importa chi siano. Qui non vogliamo questa sporcizia. Magari i ranocchi non parlano inglese. Traduci quel che ho detto.» Tristan aveva capito parola per parola, raddrizzò il busto indignato e replicò in ottimo inglese. «Signor Governatore Lynch, parlo a nome dell'ammiraglio de Grammont. Forse sapete già che abbiamo preso Veracruz. Ripeto, Veracruz. Siamo carichi di mete. Non abbiamo nulla a che vedere con Juan Corso. Non pretendiamo neanche di calare l'ancora nel vostro porto. Vogliamo cedere il carico e questo è tutto.» Lynch afferrò una caraffa di birra, l'ultima piena, e un bicchiere non ancora usato. Quando ebbe finito di ingozzarsi e due rivoli gli scendevano dagli angoli della bocca, disse, senza cercare di nascondere la collera: «Veracruz! Oh, un capolavoro di strategia! Adesso la ripresa della guerra tra Francia e Spagna diventa inevitabile in Europa, qua, ovunque! De Grammont, che è stato un militare, non è tanto intelligente da capirlo, ma forse è proprio questo che cercava!» Tristan si irrigidì ulteriormente. «Signore, se anche fosse vero ciò che ipotizzate, non coinvolgerebbe l'Inghilterra. Eh sì, invece, da qualche anno siamo in pace con gli spagnoli e in caso di conflitto aperto dovremmo scegliere da che parte stare e questo rovinerebbe i nostri commerci. Anche il governatore Jacques Nepu de Poincy è d'accordo con me. Non se ne può più della pirateria che scombina ogni manovra diplomatica.» «Gli inglesi in pace con gli spagnoli», Tristan sogghignò. «Buona questa. L'intera Giamaica pullula di pirati a partire dal mio amico John Cox. Chiedete a lui quanti galeoni con il Leone di Castiglia ha salito ultimamente per procurare la vostra percentuale di bottino.» Cox non poteva rispondere, si era appena addormentato, la testa all'indietro e la bocca spalancata, ma nemmeno Lynch poteva replicare. Avrebbe dovuto ammettere la verità. In effetti, l'Inghilterra non combatteva la Spagna in mare aperto e non rilasciava lettere di corsa o di marca. Tuttavia, nel nome della sacrosanta iniziativa privata, lasciava che fossero singoli aristocratici o mercanti ad armare navi pirata a loro spese e a loro rischio, ciò che permetteva alle autorità di Porto Real di negare ogni corresponsabilità in caso di cattura. Il sistema funzionava bene, da un lustro almeno. Lynch era una persona intelligente e tale fu la sua replica. «Capitano, come vi chiamate?» «Tristan, Jean-Marc Tristan.» «Bene, capitano Tristan, vi sfugge la differenza tra una guerra irregolare fatta per interposti combattimenti e una guerra dispiegata. Quest'ultima è molto più costosa e per nulla redditizia. L'aver saccheggiato Veracruz in nome della pura avidità ci condurrà alla seconda e ciò diminuirà i guadagni della Giamaica e di tutti i possedimenti inglesi. Per il momento non vi faccio impiccare.» «Impiccare?» gridò Tristan sdegnato. «Badate che a largo abbiamo 3 navi e centinaia di cannoni. E di questo dovete ringraziare la mia generosità che vi ha permesso di sostare senza danni. Quanto a navi e cannoni, Port Royal ne ha molti di più. Ora, per favore, tornate da dove siete venuto. La storia loderà la mia proverbiale condiscendenza. E invece di mettere una corda al collo a voi e ai vostri amici, mi limito a ricacciarvi in mare con un calcio nel culo. La provocazione era gravissima, degna di un duello, e nemmeno Tristan, però, mancava d'acume. Gli fu facile intuire che non gli conveniva insistere. Si alzò dal tavolo senza riuscire ad occultare la vergogna. I compagni lo imitarono. Macari fece lo stesso, ma ebbe un impulso imprevisto e porse al governatore una delle due buste che aveva con sé. «Sir Thomas, il capitano Laurent de Graff mi ha chiesto di consegnarvi questa missiva». Lynch fu stupito da quella novità imprevista. «Lorenzillo! Oh, date qua!» Strappò la busta sigillata e scorse il foglio che conteneva. Quando rialzò lo sguardo era decisamente rabbonito. «Oh, ma guarda, il terribile de Graff chiede di entrare al mio servizio. Ne ha abbastanza della Francia, è evidente. Beh, posso pensarci. Contro Juan Corso e Giorgio Nicola Lorenzillo potrebbe fare al caso mio. Ho un'altra lettera da consegnare, anch'essa di Lorenzillo e diretta a sua moglie che vive in Spagna nelle isole Canarie», disse Macari. «Datemi anche quella, sì, la farò recapitare». Notando la calma del governatore, Tristan osò dire: «Non sarà il caso di ridiscutere dei nostri possibili commerci?» Lynch si inalberò all'istante. «Ma allora siete sordo! Non avete capito ciò che vi ho detto? Tornate ai relitti che chiamate navi e sbarazzate Port Royal dalla vostra spazzatura. Vi concedo just 2 hours, 2 ore per salpare. Dopo cominceremo a cannoneggiarvi e ogni veliero di cioccolato vi verrà incontro». Tristan era di un pallore impressionante. Penso che siate ubriaco. Nessun uomo lucido di mente sfiderebbe così il cavaliere de Gramont e i fratelli della costa. «Ah, un tempo no, ma adesso voi siete finiti, siete dei cadaveri viventi. Port Royal non farà che crescere. La tortuga invece è condannata. E adesso vedete di sparire, andate a combattere altrove battaglie che nessuno vuole più, a partire dal vostro stesso re». Ai filibustieri senza fiato non restò che uscire mentre Lynch svegliava Cox perché richiamasse le ragazze di poco prima. Ecco, questo capitolo siamo quasi alla fine di Veracruz. Penso che con la prossima diretta, sicuramente. La prossima diretta si arriverà alla fine del libro di Veracruz di Valerio Evangelisti, La storia sui pirati. Per chi l'ha ascoltata sa di cosa si tratta, per chi non l'ha ascoltata o sta ascoltando ora può andarsi ad ascoltare i podcast delle settimane precedenti. E quando finiremo questa lettura o continueremo noi, o se qualcuno di voi ci vorrà dare dei suggerimenti, delle robe, delle cose, suggerimenti sui libri da leggere su Radiazione, li potete fare attraverso la mail di Radiazione, radiazione@autistici.org, dove potete mandarci, oltre ai consigli o i pareri sui libri che si stanno leggendo, anche notizie su controinformazione, giornali che volete pubblicare online, iniziative, insomma un po' di cose che potete fare attraverso la mail di Radiazione. Invece per il blog di Radiazione, radiazione.noblogs.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata e dove potete riascoltare già da domani la diretta di oggi, dove potete riascoltare anche le dirette precedenti per chi si è perso il racconto di Veracruz, oppure la controinformazione, oppure scaricarvi opuscoli, manifesti, qualche CD, ce n'è. Nella pagina di download di Radiazione c'è un po' di cose da scaricare gratuitamente. L'indirizzo, cioè il link per ascoltare Radiazione, radiazione.listentumaradio.com, o altrimenti attraverso il banner che trovate su home page del blog di Radiazione, ci cliccate sopra dal lunedì o il lunedì o il venerdì dalle 17 alle 19 e ascoltate la diretta d'azione. Ricordo che nelle 2 settimane precedenti, per motivi miei di salute, non è andata in onda la diretta d'azione, mentre per già da venerdì prossimo, quindi 10 gennaio, tornerà la diretta d'azione con solo controinformazione e musica. A meno che il microbo scellerato non torni a fare la manifestazione. Il microbo gira e rigira. Con questo vi saluto, vi lascio con un brano di Code 4 Accelerate e l'appuntamento è a venerdì 10 con la diretta d'azione con controinformazione e musica per il finale della lettura di Vera Cruz e per il lunedì successivo, solito orario 17-19. Survivor. Sessioni musicali.